Ritroviamo il musicista Valerio Vigliar per parlare con lui dell'iniziativa intitolata Tirate sul pianista, quattro soli di tasti neri e bianchi all'Angelo Mai, sabato 24 marzo. Valerio, ben ritrovato. Ciao a tutti e ciao a te. Ci dici un po' di questa serata? Sostanzialmente nasce da un po' un desiderio egoistico mio, personale, di mettere insieme tante estetiche diverse del pianoforte. Nel senso che, diciamo che il pianoforte è come strumento armonico, principe, nel senso lo strumento che ha più possibilità di combinare suoni simultaneamente, ha proprio come altra possibilità infinita quella proprio di dare spazio a infinite estetiche musicali. Sì. E quindi mi è sempre capitato di assistere anche ultimamente a dei, non solo ovviamente concerti per piano solo, ma proprio concerti in cui c'erano più pianisti uno dopo l'altro, ma sempre uniti da un linguaggio più comune, no? Quindi, che no, recital di musica classica, oppure incontri di jazzisti. E invece avevo proprio il bisogno e quindi anche poi il desiderio di condividerlo con un pubblico. E di diciamo regalare la possibilità di vedere il pianoforte come una scatola magica attraverso la quale si possono attraversare veramente mondi molto diversi uno dall'altro, ma proprio per il fatto che la scaturigine del suono viene dallo stesso strumento, poi infine, alla fine, legati da un anche pur se sottilissimo fil rouge. E quindi da qui l'idea di iniziare a fare questa rassegna che chissà che piega prenderà, è possibile che possa essere anche allargato su altri strumenti, però diciamo che questa cosa di tirate sul pianista fa anche un po' un gioco con il celebre titolo del film. E ho inizialmente chiamato per questa data dei musicisti insomma, che mi piacciono tantissimo e che sento molto diversi anche tra di loro a livello linguistico, per cui vabbè, ci sarò io che diciamo che rappresento, non so neanche come definirmi, però un pianismo un po' più romantico e melodico. Poi c'è Andrea Pesce che viene da un'esperienza non proprio pianistica, pur essendo diplomato in pianoforte, però lui insomma è famoso per essere arrangiatore dei Tiro Mancino e svariati altri progetti, quindi diciamo un musicista che ha attraversato più l'area del pop, diciamo, e della canzone, che ha però invece negli anni coltivato, ha avuto la possibilità, visto che siamo amici, ha coltivato proprio una sua estetica sul minimalismo, sulla ripetizione, molto interessante. E poi dall'altro canto ho chiamato un altro amico che è Greg Bark, che è un pianista americano che adesso vive in Italia, insegna a Bologna alla cattedra di jazz ed è un pianista straordinario. Lui viene proprio dal jazz, diciamo, e quindi è un pianista più di impronta jazzistica. E infine ho chiamato, grazie anche alla complicità di Greg, quest'altro pianista italo-israeliano che si chiama Yakir Arbib. Ed è un pianista, un improvvisatore straordinario che passa dalla contemporanea alla classica con una tecnica micidiale, insomma. E quindi, insomma, diciamo che la serata sta strutturata in questo modo: ci saranno dei soli, i soli affidati a un amico dureranno tra i 20 e i 30 minuti. Quindi diciamo che in totale il concerto durerà tra l'ora e mezza e le 2 ore, in cui davvero, insomma, cercherò di creare un viaggio attraverso l'esplorazione di mondi diversi. Ecco, questo è un po' in sintesi quello che è successo e quello che mi ha portato a creare questa iniziativa. Non ci saranno solo i pianoforti perché leggo anche Dance Floor e il nome di Bob Corsi. Esatto, infatti diciamo la sfida coraggiosa è fare un'iniziativa di questo tipo il sabato sera, quindi di grande ascolto e grande concentrazione, ma regalando comunque al pubblico la possibilità A di essere accompagnati nella fase precedente, perché L'Angelo Mai aprirà un'oretta prima alle 21, quindi la possibilità di comunque di godersi lo spazio con gli ascolti di Bob Corsi, e poi chissà lanciarsi invece in danze scatenate dopo essere stati concentrati e rapiti dai piano solo attraverso quello che io amo considerare un archeologo e esploratore della musica, qual è Roberto Corsi. Che quindi garantirà un prima e un dopo. Assolutamente, sì. Senti, i riferimenti web per saperne di più, non solo sulla serata, ma anche sulla vostra attività separata di tutti quanti? Allora, Yakir Arbib ha un suo sito, Ok. mentre Greg Barca sia una pagina d'artista Facebook che un sito. Io ho fondamentalmente la pagina su Facebook e un sito, mentre Andrea Pesci ha una pagina su Facebook. Perfetto, poi per tutte le informazioni c'è pagina Facebook e sito internet dell'Angelo Mai. Sì, ho anche proprio della serata che si chiama Tirate sul pianista più dance floor. Benissimo. Ci vediamo stasera. Spero. Un abbraccio, ciao Valerio.